Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana. Settimana che definire intensa è un eufemismo. Al di là del ponte, per chi l'ha fatto, è successo di tutto. La manovra finanziaria in Italia e nelle ultime 48 ore il rischio più volte evocato che l'euro si sciogliesse come neve al sole e che l'Europa facesse più o meno la stessa fine. C'era chi scriveva oggi in alcuni quotidiani: l'Europa è nota per trovare le soluzioni quando è sull'orlo del precipizio. Sull'orlo del precipizio ci eravamo sicuramente arrivati, la soluzione è stata trovata, poi sarà nostro compito oggi cercare di capire, e anche nei prossimi giorni ci mancherebbe, se la soluzione sia una soluzione che può reggere. Si complica, diciamo, la geografia europea intesa come geografia numerica. L'Europa l'abbiamo sempre definita a 27 per quello che riguardava l'Europa dell'area dell'Unione Europea e a 17, erano prima 15, poi 17 per quello che riguarda l'area euro. Adesso c'è una terza Europa, che è un'Europa 17 più, e il più non me lo sono inventato io, è la frase che è uscita oggi da Bruxelles: 17, e quindi i paesi dell'area euro più 6 paesi non dell'area euro, nel caso specifico Polonia, Danimarca, Lituania, Lettonia, Bulgaria e Romania, che però hanno accettato l'accordo di oggi. Chi resta fuori? Resta fuori la Gran Bretagna, e questo è certo, anche perché oggi lo scontro più grosso, lo racconteremo, si è avuto proprio con Cameron e quindi con la Gran Bretagna. Resta fuori anche la Svezia e la Repubblica Ceca, che probabilmente però aderiranno a questo accordo, ma devono prima consultare i loro parlamenti. Un accordo che adesso racconteremo nei dettagli. Iniziamo però dalla reazione dei mercati. Positivi sin dalla mattinata, come dicevamo nel corso del GR, stanno aumentando anche i guadagni per un insieme di motivi, tra cui citiamo anche Wall Street, che guadagna l'1,35%, però è innegabile che l'accordo raggiunto a Bruxelles, vedremo quanto reggerà nel giudizio dei mercati, delle agenzie di rating, di chi deve investire. In questo momento l'approvazione c'è: più 3,21% Milano, più 2,40% Parigi, più 1,90% Francoforte, più 0,70% Londra, e che pur restando fuori resta positiva. E c'è anche sull'euro: l'euro si è mosso poco in questi giorni, però obiettivamente questa mattina era 1,331, 1,329, adesso siamo 1,3383, quindi insomma l'accordo sembra aver ottenuto i suoi effetti. Lo si può dire a maggior ragione se si guarda quello che stanno facendo i titoli bancari, che erano in recupero fin dalla mattinata, però guadagnavano tra il 3 e il 4%, adesso guadagnano il 6,90% Unicredit, il 6,70% Intesa San Paolo, il 5,70% UbiBanca, Fiat Industrial il 5,14%, Fiat Auto il 4,14%, A2A il 4%. Buzzi Unicem pure, Mediaset anch'essa in rialzo del 4%, Generali più 3,70%, poi c'è la Popolare Emilia Romagna che guadagna il 3,5%, la Popolare di Milano il 2,80%, il Banco Popolare più 2,70%. Perdono, così diamo il quadro complessivo, di Assorin il 6,10%, Fondiere assai, ma per dinamiche tutte relative alla situazione del gruppo di Ligresti, meno 1,92%, nell'automatica meno 1,70%, Campari mezzo punto percentuale di calo. L'accordo lo racconteremo adesso, soddisfa tutti? No, è sicuramente un compromesso, ma questo lo si era capito fin da ieri. Il timore vero, in questo periodo mi sembra importante guardare anche il bicchiere mezzo pieno, il valore vero di questo accordo è comunque che si è arrivati a un accordo. Ieri in serata non era nemmeno sicuro che si sarebbe arrivati a un accordo, c'era la posizione francese da una parte, appoggiata anche da quella italiana, la posizione tedesca dall'altra e in mezzo la posizione inglese. Non in mezzo nel senso che a mediare, ma come tre posizioni diverse. Voi capite che, insomma, mettere assieme tre paesi del genere non è facilissimo. Alla fine l'accordo è un accordo franco-tedesco con un ruolo anche dell'Italia. La mediazione di Mario Monti con la Gran Bretagna è stata importante, ma come avete sentito anche dalle dichiarazioni che ha fatto ascoltare il nostro GR, Monti ha detto: avrei preferito un accordo diverso, e ha cercato fino all'ultimo Monti anche di tenere dentro la Gran Bretagna. Non c'è stata possibilità di tenere la Gran Bretagna dentro. L'accordo garantisce alla Germania, da un lato, i meccanismi automatici di sanzione se un paese non rispetta il vincolo del pareggio di bilancio, cioè le entrate e le uscite in un anno devono essere uguali e quindi non ci deve essere deficit, o meglio, viene calcolato una piccola possibilità di deficit, ossia dello 0,5%, e questa è la parte che soddisfa di più la Germania, perché la Germania vuole avere garanzie che i paesi non continueranno a indebitarsi e non useranno il fondo permanente salva stati per indebitarsi. Il fondo permanente salva stati però decollerà dal 1 luglio 2012, quindi con un largo anticipo sulla tabella di marcia. Questo, diciamo, è la cosa che più interessava all'Italia e, diciamo, tutta anche alla Francia. Non potrà però ricapitalizzare le banche, né avrà lo status di banca esso stesso. È sparita invece nella dichiarazione finale la possibilità di ammorbidire gli obblighi sul bilancio nel caso di ciclo economico negativo, e questa forse è una sconfitta, nel senso che un'Europa un po' più realistica e un po' meno tedesca poteva anche immaginare che quando l'economia frena in tutto il mondo è difficile mantenere il deficit a zero. Però non c'è. Non c'è perché Londra si è tenuta fuori, perché Londra voleva che venissero in qualche modo ammorbidite, se non tolte totalmente, le regole europee sui mercati finanziari. Ora, noi nel passato abbiamo criticato sicuramente l'Italia per la sua incapacità di presentare piani credibili, la Francia quando riteneva di essere sopra le parti, poi si è scoperto che così non era, e anche la Germania perché insomma la rigidità tedesca rischiava di essere miopia, di essere anche autolesionista. Lasciateci criticare, lo facciamo anche subito, la Gran Bretagna, perché obiettivamente va bene essere un'isola, ma isolarsi è un'altra cosa. Andiamo bene, proprio bene. Lo diciamo perché la posizione di Cameron è stata una posizione assolutamente irremovibile. La Gran Bretagna ha rischiato di saltare il vertice proprio sulla base del non voler accettare quelle che sono le condizioni europee sui mercati finanziari, ma lo diciamo anche perché la Gran Bretagna è stato il paese in Europa in cui i titoli tossici, gli rischi irresponsabilmente presi dalle banche e dal mondo finanziario hanno più colpito il paese. La Royal Bank of Scotland è stata salvata dallo Stato, vi ricorderete cosa è successo a Northern Rock, le file davanti alla banca. Cioè, forse accettare anche qualche vincolo in più, qualche regola in più sul mondo della finanza non sarebbe stato male. Allora, fateci scherzare con i Sex Pistols e questa versione di God Save the Queen, perché obiettivamente Cameron è sembrato essere più tedesco dei tedeschi oggi, nella sua insistenza anche un po' spocchiosa nel guardare sempre questa Europa come se fosse, no, un paese africano, col massimo rispetto dei paesi africani. Le regole servono per la finanza, e se no auguri agli inglesi se vogliono avere una finanza sempre più simile al modello americano, che non mi sembra aver dato un grande esempio di sé. 349 238 6666 per i vostri sms. Questa lunga premessa vi fa capire che la puntata oggi sarà praticamente monografica, dedicata tutta al rischio fatale che ha corso oggi l'Europa, che ha corso e speriamo sia alle spalle. Prima di tutto però brevemente le altre notizie. Allora, sull'oro e sul petrolio poche notizie, $1,711 l'oro all'oncia, un leggerissimo calo, petrolio anch'esso in leggerissimo calo, $98 al barile. Il dato economico che riguarda invece l'Europa, al di là appunto della pagina dedicata agli accordi europei, è il crollo dell'export a ottobre che ha registrato la Germania. Ora, voi sapete che la nostra linea non è mai stata a dire mal comune mezzo gaudio. Ieri l'Italia ha avuto un dato sulla produzione industriale inquietante, oltre il 4% di calo, che appunto fa e conferma che entreremo nel 2012 in frenata e in recessione. Però anche la Germania l'ha capita forse alla fine, cioè che se va giù l'Europa, se si fermano i consumi, come molti di voi scrivono, in Italia, in Francia, in Spagna, il 60% di export della Germania va in Europa e mi dispiace, ma insomma anche la Germania è legata a filo doppio, tant'è che le agenzie tedesche dicono crollo sorprendente. Sorprendente sì, però il continente è quello, e allora ottobre le esportazioni meno 3,6% rispetto a settembre, e lo ha comunicato appunto l'Ufficio Federale di Statistica. Come vanno gli spread, volete sapere? Sono tutti in calo. Sostanzialmente lo spread nostro è sceso sotto la soglia di 430 punti, adesso è arrivato a 410, siamo sempre a livelli altissimi. Il differenziale spagnolo è a 360-350 e Francia, con la Francia invece lo spread è a 110 punti. Vertice europeo, un po' di pazienza, avremo un'ora per parlarne. Per quello che riguarda invece le notizie che arrivano dall'Italia, ma ne voglio dare una sì che riguarda l'Italia, ma non arriva dall'Italia, perché Roberto Saviano in una conferenza a New York, Saviano immagino lo conoscete tutti, autore di Gomorra, ha calcolato, era una conferenza con l'economista Nouriel Roubini, quello Mr. Doom, quello che ha predetto per prima la crisi che sarebbe scoppiata. Ebbene, tra l'altro devo dire, Roubini fu preso per i fondelli a Davos 2 anni prima, nel 2006, dall'allora ministro Tremonti. Poi Tremonti si è pentito malamente di averlo preso per i fondelli, perché ha avuto ragione Roubini. Ma chiuso la parentesi su Roubini, Saviano ha calcolato appunto il dito contro lo strapotere delle banche e il loro ruolo nella gestione dei capitali del narcotraffico. Saviano ha detto che tra i 400 e i 500 miliardi di dollari della criminalità ogni anno vengono riciclati dalle banche americane. Si tratta di liquidità che arriva alle mafie e viene a mancare al sistema sano. Io non so come abbia fatto Saviano a calcolare questi 400-500 miliardi. Quello che è chiaro però, e lo dico con massimo rispetto per il mondo bancario, che quando le mafie riciclano i capitali, usano anche istituti finanziari, che poi siano in Italia, in America, in Svizzera, in Lussemburgo, questo non sta mai a dirlo, ma non è che i miliardi delle mafie si riciclino solo aprendo pizzerie, ristoranti e esercizi commerciali, Vabbè, veniamo all'Italia. La manovra, circa 1300 emendamenti in commissione. Il lupo perde il pelo ma non il vizio, nel senso che la politica fa bene a emendare, a proporre, però attenzione, questa manovra è una manovra quasi blindata, l'ha detto Monti. La prossima settimana con più calma parleremo anche di vari dettagli della manovra. far pagare l'ICI anche alle parrocchie e agli oratori e agli edifici di culto, o almeno farla pagare a quegli oratori che affittano campi di calcio e sale per le feste di compleanno. Questo emendamento l'hanno presentato 4 deputati del PDL, non del PD, del PDL, sono Maurizio Bianconi, Viviana Beccalossi, Monica Faenzi e Francesco Biava. Ed è un emendamento ancora più, diciamo, rigido rispetto alla proposta di far o alla richiesta che ci siamo permessi anche noi molto modestamente di avanzare alla Chiesa Cattolica di pagare l'ICI almeno sugli immobili non adibiti a culto. Io aggiungerei anche sui campi di calcio, visto che fanno attività sociale, però quando tu hai un albergo dove si paga regolarmente per dormire, che poi sia gestito dalle suore poco importa, quando tu hai scuole private che a tutti gli effetti si paga la retta, per cui a tutti gli effetti non sono fatti per motivi di culto, o ospedali, forse lì ce la devi pagare. Ma a mio avviso, lo ripetiamo, abbiamo fatto anche una puntata su questo, sarebbe bello che la Chiesa Cattolica, visto che la CEI spesso chiede equità alla manovra del governo, l'ha fatto anche il Cardinale Bertone, e ha chiesto una manovra equa, visto che la CEI si occupa, sa benissimo quella che è la situazione del nostro paese in questo momento, le difficoltà dei cittadini, ha chiesto una manovra equa, ecco, desse l'esempio, che è così importante anche nel mondo cattolico, l'esempio, dare a Cesare quel che è di Cesare, e facesse lei il gesto, senza essere obbligata da un emendamento legislativo, no? La risposta invece oggi della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana, è molto secca. Dice: la Chiesa Cattolica paga quello che c'è da pagare, paga quello che è previsto, come tutti, e non gode di nessun privilegio. Allora, sulle prime tre non c'è dubbio. La Chiesa Cattolica non commette nessun reato, è la legge che consente di, o è una formulazione un po' ambigua, di non pagare l'ICI anche su ospedali, scuole e alberghi. Che non gode di nessun privilegio, abbia pazienza anche la CEI, non è così, quello è un privilegio, tant'è che la Commissione Europea ha aperto un'inchiesta per capire se non si tratti in qualche modo di concorrenza sleale nei confronti di un albergatore che invece lì ci la paga adesso, Siamo d'accordo, lo dico a chi scrive, che questa cosa dovrebbe essere estesa anche ai partiti politici, anch'essi esenti dai ICI nei loro edifici, e anche i sindacati, anche la CGIL, ci mancherebbe, la CIS, la UIL, tutti i partiti politici. Perché non devono pagare l'ICI? Non si capisce. Sono luoghi di culto, no? Per alcuni forse. E sulla manovra, al di là degli emendamenti, oggi il neo presidente del Consiglio Mario Monti ha detto intoccabili i saldi sulla manovra, ma anche la struttura. Il giudizio sulla manovra invece è arrivato oggi da due soggetti: da un lato la Banca d'Italia, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, e dall'altro la Corte dei Conti. Sono stati giudizi abbastanza preoccupati, soprattutto su un aspetto, e ripeto, avremo modo di parlare nella prossima settimana, l'effetto restrittivo, cioè di calo del PIL che avrà questa manovra. E vi dico subito qual è la mia posizione, che non conta nulla. Io sono d'accordissimo con quanto ha scritto Pane Bianco l'altro ieri sul Corriere della Sera. Questo governo, la manovra ha delle cose molto positive, però poteva osare di più, visto che è un governo tecnico con una maggioranza politica che però in questo momento è obbligata a sostenerlo. Poteva osare di più sul taglio dei parlamentari, sulla lotta all'evasione. Se non osa questo governo non si capisce chi possa osare, anche perché questo governo non deve poi rispondere a collegi elettorali. Poteva osare un po' di più, un po' tanto. Dopodiché, ecco, questa critica la possiamo fare noi, la possono fare i cittadini, la può fare Pane Bianco, la può fare chi il Sole 24 Ore con i suoi editoriali, non la può fare chi ha governato fino a un mese fa, perché se tu hai fatto poco o niente per 3 anni, non sei riuscito a fare una riforma che fosse una, le pensioni no perché la Lega non voleva, la riforma fiscale no perché il PDL non voleva, forse ogni tanto tacere non nuoce. Comunque sentiamo l'effetto restrittivo, secondo il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che questa manovra avrà sull'economia italiana. Le misure di bilancio che sono contenute nel decreto hanno effetti restrittivi. Questi sono stimati da noi in circa 0,5 punto di prodotto, di percentuale di prodotto nei prossimi 2 anni, e l'impatto potrebbe essere in larga parte compensato se il calo dei rendimenti sui nostri titoli decennali osservato nei giorni immediatamente successivi all'emanazione del decreto si confermasse e si estendesse all'intero arco della curva per scadenza. Come avete visto, purtroppo dal pomeriggio di ieri in realtà parte di questo miglioramento si è eroso, quindi questo è un elemento di incertezza. Allora, vedo che la Chiesa interessa molto gli ascoltatori. Nessuno ha chiesto che paghino le mense della Caritas, per favore, non facciamo più polemiche inutili. Abbiamo avuto ospite anche chi rappresenta la ragioneria della diocesi di Milano. Nessuno vuole far pagare il terzo settore, chi fa volontariato. Si tratta solo di quegli edifici che palesemente non hanno nulla a che fare con il volontariato, con il terzo settore e con il luogo di culto. Su, l'ospedale, la clinica privata, la scuola privata, l'albergo a tutti gli effetti, di questo stiamo parlando. Comunque, restiamo sull'intervento di Ignazio Visco, ha fatto notare come il cuneo fiscale in Italia sia più alto praticamente di 5 punti percentuali e mezzo rispetto al resto d'Europa, cioè la differenza tra quanto costa un lavoratore all'impresa e quanto poi il lavoratore effettivamente becca in busta paga. Noi perdiamo il 5,5% rispetto alla media europea. E poi ha detto: attenzione, il disegno di legge è una misura necessaria e urgente, ma poi bisogna passare anche alle politiche sullo sviluppo. Io lo faccio in Visco sulla crescita. L'azione dovrà proseguire con misure ad ampio spettro che riportino gradualmente la nostra economia su un più elevato ed equilibrato sentiero di crescita. Io penso, come ho già detto nell'ultima volta che ci siamo incontrati, che sia cruciale definire un disegno complessivo, organico, chiaro e credibile nel quale si inseriscono questi interventi. Cioè, non possiamo avere interventi, diciamo, che si sovrappongono uni agli altri e che poi devono essere messi tutti insieme e valutati se non c'è questo quadro già definito a priori. Ora, questo quadro dovrà comprendere sia le misure già definite sia quelle che saranno delineate a partire da oggi. Dovrà inquadrare sia gli interventi che possono essere varati in tempi brevi, sia quelli che necessitano di tempi più lunghi. Un approccio organico alla definizione delle misure per la crescita potrà migliorare la fiducia sulle prospettive della nostra economia, con risultati positivi per gli investimenti e lo stesso onere del debito pubblico. Così appunto il governatore Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, che ha detto: attenzione, ha detto se si aumenta la pressione fiscale bisogna a questo punto però anche ridurre la spesa pubblica, e questo per esempio è uno degli aspetti più nebulosi della manovra, non si capisce i tagli alla spesa pubblica da dove arrivino. Così come sull'evasione fiscale si poteva fare un po' di più, 1000 euro è ancora tanto, 500, 300 euro come contante. E poi appunto sul contante, lo stesso governatore della Banca d'Italia ha detto: un'ulteriore riduzione della soglia sarebbe auspicabile. Io non ho mica capito perché Monti si sia fermato a 1000 euro. Visco inteso come Vincenzo, non come Ignazio. Allora era sceso a 500 euro, si poteva scendere a 500. Comunque, invece, plauso del governatore della Banca d'Italia per la riforma delle pensioni. Ha detto che l'estensione del metodo contributivo a tutti i lavoratori ridurrà le disparità di trattamento e rende più stretta la relazione tra i contributi versati e i benefici pensionistici. Prima o poi, lo dico con massimo rispetto per chi ha la pensione non col contributivo, però non si può andare avanti che la pensione è indipendente da quello che hai versato, E poi il Presidente della Corte dei Conti, Giampaolino: avrà un forte impatto sociale questa manovra. Molto, molto critico il giudizio di Giampaolino. Un forte impatto sociale, c'è il rischio di una spirale negativa e con l'aumento dell'IVA l'inflazione crescerà di almeno un punto percentuale. Non può essere sottovalutato il rischio che le difficoltà crescenti di conseguire effetti rapidi e strutturali attraverso il contenimento della spesa pubblica primaria e di conseguenza il ricorso prevalente a manovre che impiegano lo strumento fiscale, concorrono a determinare una spirale negativa. L'aumento dell'aliquota IVA e delle accise sui carburanti si trasmetterà, pur in un contesto di stagnazione della domanda, sulla dinamica dei prezzi al consumo, con un effetto di maggiore inflazione che prudenzialmente può essere stimato di almeno un punto percentuale. Allora, vedo alcuni messaggi al 349-238-6666. A 300 euro non si può scendere perché esiste la banconota da 500. Attenzione, in alcuni paesi le vogliono levare in Europa la banconota da 500 perché serve nella stragrande maggioranza dei casi agli evasori e alla criminalità organizzata. Cioè, quanti di voi, scrivetemelo, in un anno hanno usato una banconota da 500 se non per pagare in nero? Parliamoci chiaramente. Su, una banconota da 500, chi è? Non te la cambiano neanche, vai al bar con la banconota da 500. Su. E invece alcuni scrivono: beh, obbligare però i pensionati a aprire il conto corrente per il versamento della pensione, lo sapete, sopra i 500 euro lo Stato non pagherà più in contanti, è un provvedimento odioso a vantaggio delle banche. Allora, ok, però io immagino che la maggior parte dei pensionati, essendo lavoratori prima, avessero un conto corrente. Non è che tutti i pensionati girino col contante, la calcolatrice, dai. E poi, vuol dire, sarà anche un provvedimento odioso, ma intanto è un tentativo di limitare il contante, che è il canale principale in questo paese, in cui, lo sappiamo tutti, si crea evasione fiscale. Quante volte vi ha detto l'idraulico, l'artigiano, chi è venuto a farvi lavori in casa, se mi dà con l'assegno una cifra, se mi dà invece in contanti un'altra? Oppure no, oppure viviamo in Scandinavia. Ultima dichiarazione che vi faccio ascoltare, poi c'è il meteo e poi c'è la pagina sull'Europa. Corrado Passera, neo ministro delle attività produttive, trasporti, le infrastrutture, ha detto: attenzione, sulla TAV Torino-Lione deve andare avanti. Si è molto seccato, ha definito mortificante e vergognoso il fatto che l'Italia rischi di perdere miliardi di fondi comunitari per lo sviluppo. È mortificato e vergognoso l'atteggiamento di alcune amministrazioni del Sud Italia che non riescono a spendere, mortificante e vergognoso che non riescono a spendere questi soldi. E poi ha ricordato come per le infrastrutture si siano sbloccati l'altro giorno 12 miliardi e mezzo di euro, ricordando però anche che il tema più grave del paese resta la situazione occupazionale. Noi abbiamo da risolvere insieme un problema forse grande come non c'è mai stato nel nostro paese da tanti tanti decenni. Stiamo parlando di molti milioni di persone che da noi intesi proprio Parlamento e Governo, si aspettano novità su questo fronte. E ultima nota di Passera sulla decisione di ieri dell'EBA, ne abbiamo parlato tutta la puntata, l'European Banking Association si è svegliata ieri e ha detto: beh, servono altri 114 miliardi alle banche europee per ricapitalizzare, con il conseguente crollo dei titoli bancari in Europa. Passera ha definito l'intervento dell'EBA di ieri mal pensato, mal gestito e temporalmente sbagliato, in sostanza poco saggio. Un giudizio più che positivo, mi sembra. Meteo, pubblicità e poi iniziamo con l'Europa che forse si salva con i moduli quasi calcistici, le geometrie variabili. Europa 17 più. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora apriamo questa lunga pagina europea che ci accompagnerà fino alle 18:30. Dunque, vedo però due messaggi che devo leggere. Il primo è da Rovigo, un asilo parrocchiale ci ha detto due giorni fa che da gennaio ci aumenterà la retta mensile del 30% per far fronte ai ridotti finanziamenti statali. Se pagasse anche l'ICI ci farebbe pagare l'aumento della retta. Sì, ho capito, però è un asilo privato, permettetemi, fa quello che vuole. Il punto non è quanto costano gli asili privati, gli ospedali privati, le scuole private. Il punto è se i luoghi non di culto religioso o non per fini sociali come la mensa per i poveri, la comunità per i tossicodipendenti debbano o meno essere esenti dall'ICI. Secondo il sottoscritto, no, devono pagare l'ICI perché sono luoghi non di culto e non per fini sociali. E poi c'è un messaggio bellissimo. Dunque, un ascoltatore che è alloggiato al Cavallino Bianco di Ortisei, che per chi non lo conoscesse è un albergo a 4 stelle, carissimo, hanno dovuto chiamare ieri d'urgenza il pediatra, e il pediatra che è arrivato per il bambino ha detto o 100 euro in contanti o 150 euro con fattura. Complimenti al pediatra. E allora parliamo adesso dell'Inghilterra, vai. Dell'Inghilterra, ma non solo, parliamo anche dell'Europa, dell'accordo faticosamente raggiunto, dell'Europa 17 più, e lo facciamo con il nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. Buonasera Sergio. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Esausto? Abbastanza, la giornata è stata lunga. Ma non è ancora finita, ti preoccupare, è ancora finita. Sono ancora i servizi per stasera, per domani mattina. A parte le battute, allora, il modello a 17 più, che mi fa impazzire come formula, cioè i 17 paesi dell'euro più 6 paesi non area euro, che sono Polonia, Danimarca, Lituania, Lettonia, Bulgaria e Romania, la Svezia e la Repubblica Ceca forse entreranno, ma devono avere prima il referendum, fuori la Gran Bretagna e l'Ungheria, che poi l'Ungheria non ho ben capito se si abbia rivisto la sua posizione. L'accordo cosa prevede? Velocemente, l'accordo con regole, che il pareggio di bilancio, il deficit pari a zero, deve stare nella Costituzione dei vari paesi dell'area euro, che arriveranno meccanismi automatici di sanzione, come voleva la Germania, che però verrà anticipato il Fondo Permanente Salva Stati Europei, l'ESM, European Stability Mechanism, e invece non c'è la possibilità chiesta da Francia e Italia di ammorbidire i vincoli di bilancio quando il ciclo economico è negativo, quando c'è una recessione in corso. Faticosamente raggiunto, Sergio, mi sembra. Decisamente, è stata una nottata lunga, 10 ore di maratona. Quello che è successo è che alla mattina sembrava ci fosse un'Europa spaccata, anche se effettivamente facendo due conti ci si sarebbe potuti rendere conto che così non era. Nel corso della giornata, con lo sfilamento anche dell'Ungheria, la prospettiva si è completamente ribaltata, cioè la Gran Bretagna è stata di fatto isolata. Si potrebbe persino vedere, come diceva un diplomatico poco fa, il bicchiere è molto mezzo pieno, ben più che mezzo pieno, perché di fatto l'Europa va avanti a 26, la Gran Bretagna, che ha messo i blocchi maggiori, si è sfilata. È anche un po' un corso ricorso storico, se vogliamo, proprio 20 anni fa si ponevano le basi dell'euro a Maastricht, la Gran Bretagna scelse di stare fuori e rafforza la sua scelta ora. Di fatto si va avanti un po' fuori dal trattato comunitario, questo sarà il problema, perché bisognerà capire anche le istituzioni comunitarie come potranno veramente vigilare su questo accordo, essendo un trattato intergovernativo, una cooperazione rafforzata nei fatti, ma si va avanti e il segnale è stato dato. Dato il segnale, nonostante con buona pace degli inglesi, allora facciamo una cosa, Sergio, abbiamo il traffico e poi ascoltiamo anche le varie dichiarazioni che tu hai raccolto durante, nel corso del vertice, ma soprattutto nel corso delle conferenze stampa. 349-238-6666 per i vostri SMS. Di nuovo in diretta, 17:48 minuti. Allora, Sergio Nava, iniziamo a raccontare la giornata con le voci della giornata più lunga dell'euro, forse. Iniziamo da Herman Van Rompuy, che è il presidente di turno dell'Unione Europea e che ha... Com'è che si pronuncia? Un contesto temporale all'accordo, ha detto entro marzo ci sarà. Sergio, com'è che si pronuncia? Van Rompuy. Ecco, no, perché da te abbiamo la definizione. Siccome finalmente abbiamo la pronuncia corretta, prossima volta trovassero uno più semplice, fare un po', dai. Yesterday evening and this night we dealt with the euro. Ieri sera e stanotte ci siamo occupati della crisi dell'euro. Abbiamo preso importanti decisioni per salvaguardare la stabilità dell'area euro. I 17 membri della zona euro e anche tanti altri paesi si sono impegnati per un nuovo fiscal compact, un nuovo accordo europeo con regole che prevede una maggiore disciplina sui conti, maggiori sanzioni automatiche e una più stretta sorveglianza. Il nuovo trattato nascerà con un'ampia consultazione con tutti gli attori, in particolare il Parlamento europeo. Sono ottimista perché so che si riuscirà ad avere l'adesione della quasi totalità degli Stati membri. Infatti 26 Stati si sono dichiarati pronti ad aderire. Vedremo. Questi Stati riconoscono che l'euro è un bene comune, quindi a inizio marzo al massimo questo nuovo trattato sarà firmato, ma potrebbe anche accadere prima. Will be signed, could be earlier also. Allora, Sergio, insomma, la soddisfazione era evidente, anche perché tutti temevano il peggio. E se non addirittura marzo, se non prima. E tra l'altro il Presidente della Commissione Europea Barroso ha detto che gli Stati hanno di fatto accettato il potere intrusivo dell'Unione Europea, c'è una piccola rinuncia alla sovranità nell'obbligare gli Stati che aderiscono all'euro nel mettere in costituzione l'obbligo di pareggio di bilancio, e tra l'altro c'è proprio la Corte Europea, la Corte di Giustizia Europea di Lussemburgo che dovrà vigilare che gli Stati lo facciano. La posizione di Mario Draghi. Mario Draghi molto, molto soddisfatto. Tra l'altro questo patto che tutti ormai chiamano fiscal compact, piccolo aneddoto, il nome l'ha inventato lui nella sua presentazione all'Europarlamento di qualche giorno fa e tutti gliel'hanno riconosciuto, quindi c'è un tocco italiano nel nome di questo nuovo trattato, di questo nuovo patto. Sentiamo le sue parole. The meeting came to a conclusion which will have to be fleshed out. È un risultato molto buono per l'Eurozona. È abbastanza vicino a un euro compact e può rappresentare una base per maggiore disciplina economica da parte degli Stati membri dell'euro. Certainly it's going to be a basis for much more disciplined economic policy for the euro area members. E ora possiamo ascoltare invece anche Angela Merkel, anche lei sulla linea di Mario Draghi, soddisfatta quando questa mattina all'alba ha parlato. Sentiamo. Wir werden eine neue Fiskalunion schaffen für den. Costruiremo una nuova unione fiscale per l'euro, un'unione stabile nella quale porremo freni all'indebitamento. Porremo sanzioni automatiche più forti, rafforzando il ruolo della Commissione. Gli stati dell'Eurozona devono recuperare credibilità e con le decisioni odierne abbiamo raggiunto l'obiettivo. Introdurremo anche più rapidamente il Fondo Salva Stati permanente. Io penso che si tratti di un risultato molto importante. Abbiamo imparato dagli errori e ora possiamo avere una maggiore coerenza. Questo è il nostro contributo per rendere l'euro più sicuro. E ora invece ascoltiamo Nicolas Sarkozy, presidente francese, il quale ha puntato chiaramente il dito stamattina contro la Gran Bretagna. I Magnini dicono in realtà abbastanza contento del fatto di essere riuscito a lasciare Londra fuori da questo patto, da questo nuovo trattato. Sentiamo Sarkozy. Nous aurions préféré une réforme des traités à 27. Avremmo preferito una riforma dei trattati a 27, ma questo non è stato possibile, tenuto conto della posizione dei nostri amici britannici. Si tratta dunque di un accordo intergovernativo tra i 17 paesi della zona euro, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. Ora, mentre vi parlo, ci sono due paesi che hanno chiaramente detto che si terranno fuori dall'accordo, ossia Ungheria e Regno Unito. Abbiamo raggiunto un accordo di fondo sulle proposte per sostenere l'euro, sulle disposizioni circa la partecipazione di banche e fondi di investimento privati, il cosiddetto PSI, sulla governance, sulle sanzioni automatiche, sulla gestione del fondo salva stati da parte della BCE. Pensiamo che il testo, l'ultima parola, debba essere scritta a marzo. Doit être inscrit au mois de mars. Una piccola precisazione anche relativa alla potenza di fuoco di questa diciamo su cui si è discusso stanotte, no, è stata, devo dire, abbastanza inferiore alle attese, perché il fatto che si tenga l'ASM, fondo salva stati, a 500 miliardi e che poi alla fine di fatto si siano aggiunti solo 200 miliardi di prestiti bilaterali, ben al di sotto insomma delle previsioni più ottimistiche di 1.000-2.000 miliardi di potenza di fuoco a difesa dell'euro. E ora però andiamo ad ascoltare David Cameron, premier inglese. Per lui bisogna dire di fatto è stata una disfatta, perché si è trovato isolato in Europa e porta a casa ben poco a Londra. La scelta difficile ma buona, dice, sentiamo. If I couldn't get adequate safeguards for Britain in a new European treaty, then I wouldn't agree to it. Se non avessi potuto ottenere adeguate garanzie per la Gran Bretagna e un nuovo trattato europeo, non avrei mai firmato. Ciò che ci è stato offerto non era nell'interesse della Gran Bretagna e quindi non l'ho accettato. Lasciatemi aggiungere che ciò che è stato deciso stanotte ha origine da una sola cosa, dal fatto che c'è una moneta unica, l'euro. La Gran Bretagna non ne fa parte e ne rimarrà fuori. Altri paesi fanno parte della moneta unica e hanno dovuto compiere cambiamenti radicali, tra i quali cedere la propria sovranità per far funzionare il sistema. E la differenza tra chi è dentro la moneta unica e chi ne è fuori ha inevitabilmente creato tensioni all'interno dell'Unione Europea. Ora nel Trattato dell'Unione ci sono accordi che permettono ai paesi di fare alcune cose. E questo aspetto è sempre stato accompagnato da adeguate garanzie previste dai trattati. Ma quando quelle garanzie non possono essere date, allora è meglio muoversi all'interno di un accordo intergovernativo, restando al di fuori dal trattato e dalle istituzioni europee. Questo è ciò che succederà ed è nell'interesse della Gran Bretagna. That is what will happen and that is what is in Britain's national interest. Allora, sì, Sex Pistols oggi li usiamo anche dopo con Oscar Giannino e Lucio Caracciolo per dare una lettura più politica di questo accordo. Sergio, però, nel salutarti e lasciarti al resto della lunga giornata ancora a Bruxelles, vorrei però capire una cosa. Tu hai già detto, insomma, la Gran Bretagna ne esce sconfitta, Cameron ha tentato di dire senza di noi non fate l'accordo, invece l'accordo si è fatto senza di loro. Però la vera domanda mi sembra, ha vinto la Germania o invece c'è stato un vero accordo tra la posizione tedesca e quella francese, che poi rispecchiava anche un po' quella italiana, cioè di chi voleva minore rigidità? Diciamo che la Germania ha vinto. Questo accordo è quasi un copia e incolla di quello che Francia e Germania volevano, magari non al 100%, ma in buona parte. La posizione tedesca ha tirato dietro un po' tutti, tanto che si è poi imposta nel rinviare gli Eurobond, nel evitare di aumentare troppo il fondo salva stati, come altri volevano. Ha vinto per ora la Germania, hanno vinto forse le richieste anche di urgenza che c'erano. L'impressione, come ha detto una vecchia volpe, quella di Jean-Claude Juncker, presidente dell'Eurogruppo, è che non sarà l'ultimo vertice di crisi. C'è ancora molto lavoro da fare, i mercati vanno ancora rassicurati. Per ora si è tamponata un'altra falla, ma la costruzione verso un'Europa stabile e sicura, con un euro veramente stabile, è ancora abbastanza tortuosa. Sì, devo dire che però forse a questo punto la Germania avrà meno scuse per non aiutare i paesi in difficoltà, visto che se passa questo accordo, a questo punto entra dentro la Costituzione il deficit pari a zero, le misure di sanzioni, le sanzioni sono automatiche, insomma tutto quello che la Germania aveva chiesto. Magari appunto il vantaggio è questo, che poi la Germania potrà diciamo farsi carico di alcuni problemi europei con minori timori. Grazie al nostro inviato a Bruxelles, Sergio Nava. E 6 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, quasi una puntata monografica. Allora, per chi si fosse appena messo in collegamento, accordo raggiunto, la Gran Bretagna è fuori, accordo Europa 17 più, il più sta per altri 6 paesi che non sono nell'area euro, e quindi Polonia, Danimarca, Lituania, Lettonia, Bulgaria e Romania, forse anche Svezia e Repubblica Ceca devono prima far votare il referendum, aderiranno all'accordo. Fuori la Gran Bretagna. Che cosa prevede l'accordo? Lo ricordo in maniera molto sintetica, chiamato il Fiscal Compact, nome il cui copyright va dato a Mario Draghi. E l'accordo prevede che il pareggio di bilancio, cioè il deficit pari a zero, sia messo nelle costituzioni dei paesi che aderiscono all'euro, e sarà la stessa Corte di Giustizia del Lussemburgo a vigilare che i vari paesi adottino nella loro costituzione questo pareggio di bilancio. Al massimo si potrà avere un deficit dello 0,5% del PIL. Le sanzioni scatteranno in automatico, per cui quello che chiedeva fortemente la Germania. E ancora però il fondo permanente salva stati, l'European Stability Mechanism, sarà operativo molto prima, in largo anticipo, dal 1 luglio 2012. Abbiamo ascoltato prima Sarkozy, Van Rompuy, Angela Merkel e Cameron. Adesso è la volta della valutazione del Presidente del Consiglio italiano Mario Monti, che ha detto insomma il contributo dell'Italia è stato importante anche perché avevamo una manovra appena approvata. Sembra passato molto tempo da domenica pomeriggio 4 dicembre, tra queste due date era chiusa una settimana italo-europea intensa che ha visto inanellarsi cose che erano entrambe necessarie per fare passi avanti rispetto ad una situazione finanziaria complicata. In primo luogo il decreto legge adottato domenica dal governo, che contiene misure ad ampio raggio per la crescita, il rigore e in un contesto di equità. Con questo atto, che adesso è all'esame del Parlamento, l'Italia, come è stato detto da varie autorità internazionali, ha fatto la sua parte, ha dato il suo contributo alla soluzione di una crisi dell'Eurozona che non era certo di responsabilità soltanto italiana. Questo ha consentito all'Italia di affrontare con maggiore serenità e potendo dare un contributo più attivo e più accettato dagli altri, le giornate di ieri e di oggi così importanti per avviare a soluzione sistemica la crisi dell'Eurozona. Allora, il giudizio di Mario Monti è chiaro, abbiamo messo anche Rain, perché insomma il tema di oggi mi sembra molto la Gran Bretagna, ma vorrei, prima di tutto, la valutazione dei nostri ospiti. Uno è una voce quasi mai ascoltata, Radio 24, Oscar Giannino. Buonasera Oscar. Buonasera, ciao Sebastiano, ciao a tutti i tuoi ascoltatori. E grazie anche a Lucio Caracciolo, direttore di Limes, che è una rivista bellissima di geopolitica, e tra l'altro dal 6 dicembre è in edicola con un numero intitolato Alla guerra dell'euro. Direttore Caracciolo, buonasera anche a lei. Buonasera a voi tutti. O anche a te, per meglio dire. Allora, prima valutazione, il nostro Sergio Nava ci ha raccontato in sostanza che Sarkozy è contento perché ha lasciato l'Inghilterra fuori, e non ha fatto mistero della cosa. Però insomma, partiamo dall'accordo 17 più. Oscar Giannino, insomma, c'era l'Europa 27 prima e l'Europa a 15 poi 17, ma abbiamo anche l'Europa 17 più 6, mi sembrano formazioni quasi calcistiche. Oscar. Ma sicuramente da questo punto di vista il bicchiere non è tutto pieno. Io dico, rispondendo alla tua domanda, che bisogna avere un giudizio realistico. Il mio giudizio realistico è che la strada è quella indicata dalla Germania ed è una strada che io considero utile. Se sarà davvero positiva si vedrà nei prossimi mesi, perché bisogna lavorarci molto sopra e soprattutto ci devono lavorare di più i paesi più lontani dall'equilibrio. La cosa sicuramente invece non molto utile è che noi entriamo in una specie di terra incognita, perché effettivamente il no della Gran Bretagna di questa notte è un no che capisco probabilmente se fossi un cittadino britannico, ma dal punto di vista della situazione che ci regala è una situazione molto complicata dal punto di vista giuridico, perché bisognerà raggiungere, secondo il comunicato di questa notte, l'accordo entro pochissimi mesi, 3 mesi, in una cornice che deve contemporaneamente continuare a rispettare il trattato vigente, perché la Gran Bretagna bisogna aspettarsi che altrimenti romperà molto le scatole. E questo è un po' complicato dal punto di vista giuridico, perché è vero che la disciplina di bilancio rafforzata, le sanzioni e con il rafforzamento anche delle misure ex ante da comunicare e farsi approvare in sede europea per la crescita, è tutto sommato un rafforzamento delle cose già previste dal protocollo del trattato, però nella misura in cui risultasse significativamente innovativa, la Gran Bretagna, che resta nella cornice 27, può rompere le scatole. Da questo punto di vista, perché dico che comunque è utile che abbia prevalso l'impostazione tedesca? Perché i delusi chi sono? Sono da una parte gli iperfederalisti, quelli che ci hanno detto ci vuole subito l'eurobond, perché bisogna fare immediatamente uno strumento di politica condivisa. Loro sono sicuramente non vincitori da questa nottata, ma del resto i tedeschi avevano precisato che 10 anni di esperienza dell'euro, e secondo me in questo hanno ragione, hanno dimostrato che i governi dell'euroarea non hanno tenuto in sufficiente conto che il basso tasso di interesse dato a tutti li doveva sforzare e indurre a riforme sia per l'equilibrio di bilancio che per la produttività. Chiaro. E per questo i tedeschi hanno detto: per il momento noi dobbiamo dimostrare al mondo e ai mercati che a questo punto abbiamo capito la lezione, e quindi niente eurobond. Nel frattempo ovviamente restano delusi anche coloro che dicevano: va bene non fare gli eurobond, ma quantomeno la BCE dia una mano subito per federalizzare un po' i debiti pubblici dei paesi in difficoltà. E anche su questo i tedeschi hanno prevalso, perché Draghi su questo è stato chiaro ieri parlando, nel dire che lui farà tutto il necessario per dare una mano alle banche, e abbiamo già visto le prime misure straordinarie, altre secondo me ne verranno se fossero necessarie, ma no però alla linea della federalizzazione dei debiti pubblici, cioè no all'aiuto agli stati. Per me è utile questa strada, perché solo con il morso quotidiano degli spread, che quindi continueranno giustamente a ballare per quello che ci riguarda, in realtà dimostriamo agli altri paesi che sono arretrati, compresa la Francia, che su questo è molto indietro per l'equilibrio della sua finanza pubblica, che solo facendo seriamente le riforme alla fine l'euro avrà una forza vera e propria. Quindi è un percorso complicato dal punto di vista giuridico e dal punto di vista degli sforzi che devono fare i governi. La Gran Bretagna è in grado di crearci più problemi di quanto immaginiamo. E adesso arriveremo anche alla posizione britannica. Vorrei però sentire anche un commento generale da Lucio Caracciolo. Voi, titolando appunto il numero di dicembre di Limes alla guerra dell'euro, insomma, qui mi sembra che per ora la battaglia l'abbia persa la Gran Bretagna. Ma la Gran Bretagna in realtà non ha mai partecipato all'euro, quindi in qualche modo questo sanziona un distacco della Gran Bretagna dall'euro, ma direi anche dall'Europa. Non è una novità per chi conosce un po' la storia britannica. La vera novità, semmai, è che per salvare l'eurozona si è sostanzialmente liquidata l'Unione Europea, così come era stata costruita, perché adesso appunto gli inglesi al limite potrebbero anche decidere che a questo punto l'Unione Europea, così come si configura, e cioè con un gruppo di paesi che contano di più degli altri, non gli conviene più o gli conviene di meno, quindi si potrebbe riaprire un dibattito addirittura sull'adesione britannica all'Unione Europea. E poi dall'altra parte bisogna vedere fino a che punto queste decisioni che sono state prese a Bruxelles, e che sono più delle intenzioni che delle decisioni, perché finché non ci sarà, diciamo, nero su bianco un trattato più o meno cogente, stiamo ancora parlando di una indicazione. Fra l'altro dubito molto che si possa fare un trattato che siano 17, che siano 23 o che siano 26 entro marzo. Ci sarà poi inevitabilmente una lunga serie di ratifiche o non ratifiche, quindi mi sembra che si è più che altro guadagnato tempo. Resta il problema fondamentale dell'euro, che rende l'euro appunto improbabile in sé, e cioè quello di non avere un sovrano o addirittura di averne troppi, 17, i quali hanno ovviamente interessi e politiche diverse. Vorrei anche ricordare che tutto questo parlare di criteri fa abbastanza sorridere, perché a Maastricht avevamo scritto 60%, 3,0 sì, eccetera, poi francesi e tedeschi se ne sono fottuti con il nostro appoggio. E sono stati i primi a sforare nel 2003-2004. Allora, dopo il traffico, vorrei ripartire, mi piace molto la definizione di Caracciolo, per salvare l'euro abbiamo sciolto l'Europa, l'Europa come la conoscevamo, quella storica a 27, e però anche ripartire dalla considerazione di Oscar Giannino, che dice meno male, tra virgolette, forzo io il concetto, che ha vinto la Germania, perché in questo modo il pungolo continuo di spread, mercati che ti bastonano, richieste di rigore, porterà i paesi, Italia che lo sta già facendo e anche la Francia che è in ritardo, a risanare, a essere più attenti ai conti pubblici e a risanarli. Ripartiamo da qui dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. ...18:18, ultima parte di Focus Economia con voi Sebastiano Barigioni. Allora, chiaro giudizio sia di Lucio Caracciolo che di Oscar Giannino, chiaro anche oggi perlomeno il giudizio dei mercati sull'accordo europeo, più 3,40% Milano, più 2,50% Parigi, più 1,90% Francoforte. L'America ha dato una mano, Wall Street guadagna un punto e mezzo percentuale adesso, Londra più cauto al rialzo, più 0,80%, molto bene i bancari, Intesa San Paolo più 7,80%, Monte dei Paschi più 7,20%, Unicredito più 7,10%, Ubibanca più 5,70% e la Popolare di Milano più 4,70%, come la Popolare Emilia Romagna, bene anche Fiat, lo dico, più 5% sia industrial che auto. Ripartiamo allora dalla sconfitta inglese, ma anche da quello che capiterà adesso, la Germania ha ottenuto quello che voleva, adesso a mio avviso potrebbe avere anche meno scuse per non aiutare i paesi in difficoltà. Allora Oscar, Sex Pistols non ti aspettavi, God Save the Queen. Allora, lasciamo stare per un secondo Cameron, che avrà un po' di problemi. Tra l'altro mi giungono informazioni dalla City di Londra che iniziano già a girare voci che forse, vista la totale sconfitta e isolamento dell'Inghilterra, forse, ma è un forse, molto forse, l'Inghilterra potrebbe ripensarci. Il ragionamento che vorrei sottoporre a te e a Lucio Caracciolo è il seguente: la Germania ha ottenuto, con l'accordo anche formale francese, Sarkozy gode perché gli inglesi sono fuori, ha ottenuto quello che voleva, sanzioni automatiche, il pareggio di bilancio deficit pari a zero nella Costituzione dei paesi, e non ha aumentato il fondo salva stati, non ci sono gli eurobond. A questo punto non potrebbe essere un vantaggio per noi, per la Spagna, perché la Germania non ha più scuse, una volta che saranno adottati questi trattati, queste clausole, per non aiutare i paesi in difficoltà. Ma il punto è che io su questo la penso un po' come Lucio Caracciolo. Io sono realista e quindi io non ho la palla di vetro per dirti che davvero tutti i paesi che hanno dichiarato il loro consenso stanotte saranno in condizioni di rispettare i tempi, le regole che fanno parte integrante di questo accordo. È possibile anche che si perdano pezzi per strada, che ci siano problemi nella rapidissima adozione di questi vincoli, che sono vincoli pesanti, perché poi alle politiche nazionali, a tutte le politiche nazionali, mica solo a casa nostra, fa molto piacere sottolineare di fronte agli elettorati che la sovranità resta nazionale, che bisogna saper decidere a livello nazionale, no alla Commissione europea, alla quale poi bisognerà, la Commissione europea ha un ruolo importante negli accordi di questa notte, perché è quello a cui bisogna dare prima gli impegni ex ante e che è quella che poi ne tira le fila e poi si va alla Corte europea di giustizia, apposta per evitare che si passi per organi politici. Quindi in tutto questo io non lo so se davvero andremo avanti con questo numero, può essere che la Germania dica a quel punto meglio, ma con le idee chiare, piuttosto che tanti. Avete detto ancora una volta che siete tutti d'accordo, adesso fateci vedere. Quanto all'aiuto dei tedeschi, i tedeschi hanno aperto questa notte all'idea che il Fondo Monetario Internazionale, con un aumento del finanziamento complessivo europeo delle quote del fondo entro i 200 miliardi, sia pronto con questo aumento europeo di dotazioni a essere lì per lì in 24 sì. ore immediatamente pronto a intervenire qualora ci fosse la necessità, quindi è un aiuto per così dire di secondo ordine, ma nota bene, hanno detto che il Fondo Europeo di Stabilizzazione, che in teoria dovrebbe partire da metà del 2012, non avrà i poteri della banca, sarà gestito dalla Banca Centrale Europea, ma non potrà, per così dire, impegnarsi per dotazioni aggiuntive o con... Ecco, da questo punto di vista i tedeschi fanno chiaramente capire che non deflettono dalla loro linea. Allora la questione è che se i paesi vogliono continuare a sperare, aiutateci, aiutateci, secondo me sperano nel nulla. È meglio che la politica dica la verità ai propri elettorati, come per troppi anni non ha fatto. Qualcuno potrebbe giustamente immaginare, ci costa di più questa disciplina negli anni piuttosto che uscire. Che io non ne sono affatto convinto, perché no, ma ho capito il tuo ragionamento, anche perché noi abbiamo fatto il calcolo che insomma arrivare allo 0% insomma per molti paesi sarebbe costosissimo in questo momento. Lucio Caracciolo, io però insisto sulla domanda, si è elevato un po' di acqua all'acquario tedesco che continuava a dire noi non possiamo creare un fondo salva stati vero e proprio, né un debito europeo, né una banca centrale europea che garantisca in ultima istanza le banche nazionali, perché non ci fidiamo di voi, dobbiamo avere dei meccanismi automatici di sanzione, degli obblighi costituzionali. Adesso li hanno avuti e magari è più difficile continuare a difendere l'intransigenza teutonica, no? Attenzione, ripeto, hanno avuto una indicazione di essere pronti ad andare in questa direzione, primo, ci vuole un trattato, adesso non si può in una fase di crisi di liquidità, se non in una fase di rischio di insolvenza, proporre un trattato a 4 mesi, a 6 mesi in cui si deve ridiscutere tutto quanto, eccetera. Questi sono dei modi per guadagnare tempo, ma la sostanza dei problemi non cambia, prima cosa. Seconda cosa, noi abbiamo scritto tante cose nella Costituzione e quante ne abbiamo attuate? Terza cosa, noi abbiamo scritto delle cose nei trattati di Maastricht e quante ne abbiamo realizzate, a cominciare dai famosi criteri. Quindi questo positivismo giuridico per cui uno fa la regola, poi non si capisce poi chi le faccia rispettare, perché francamente finché diciamo esiste una normalità nei rapporti di forza, immaginare Van Rompuy o Barroso che danno le sanzioni alla Merkel mi pare francamente sognare, o piuttosto che anche Gammonti. Quindi ho l'impressione che i problemi ci tornano a bomba esattamente come erano prima, con una situazione però economica che sta deteriorandosi. Io ho visto gli ultimi dati di previsione della Bundesbank per il 2012, danno una crescita dello 0,6, cioè praticamente l'economia tedesca è ferma, anche la nostra andrà sotto. Quindi, oggi l'export tedesco ha fatto un meno 3,5% ottobre su settembre. Quindi non è che stiamo facendo del rigore in una fase di crescita, di espansione, stiamo, come dice anche il governatore della Banca d'Italia, stiamo facendo delle misure restrittive in una fase che rischia di diventare deflazione. In una battuta, Oscar, perché però i mercati festeggiano? Ecco, io mi riaggancio esattamente dove Caracciolo si è fermato, per dire che la cosa che a me sembra con un grande punto interrogativo è giudicare se le reazioni a breve, che sono quelle dei mercati di oggi, certo, eccetera, eccetera, sono compatibili con un processo così pieno di punti interrogativi come quello che ci ha, secondo me, giustamente ricordato Lucio Caracciolo, con il dilemma se l'economia reale tiene a questi tempi e agli sganassoni ai quali continueremo a essere esposti. In altre parole, sul numero dell'Economist che c'è oggi in edicola, c'è un bellissimo articolo che richiama, e lo fa da un punto di vista per niente britannico, filo Cameron, anti-europeo, ma lo fa in maniera sistemica, richiama un precedente che non è quello del 1929, ma è quello del 31-32, quando sia la Gran Bretagna, sia l'America, sia la Germania dissero va bene, basta con tutti questi aiuti pubblici, iniziamo a tagliare i deficit e ad adottare politiche rigorose. Quello che avvenne allora fu per tutti, diversamente ma per tutti, per l'America un ritorno alla crisi piena. E anche per la Germania, Gran Bretagna un enorme problema, per la Germania il nazismo. Il nazismo. Allora, Naturalmente Oscar... la storia non si ripete, ma il dilemma se il deterioramento dell'economia reale è in grado di reggere a tempi così lunghi al sganassone che continueremo a sopportare è il dilemma vero, perché alla vero... fine può essere che salti l'euro comunque. Sì, è il vero interrogativo. Devo leggere una notizia importantissima per noi invece, che nulla c'entra poco fa con l'Europa. Poco fa il cardinale Bagnasco, il presidente della CEI, ha detto sull'ICI agli immobili cattolici non adibiti a culto, se ci sono punti della legge da rivedere o da discutere non ci sono pregiudiziali da parte nostra. Oscar la pensa in maniera diversa, ma mi sembra un'apertura importante della Chiesa Cattolica, ecco il perché delle campane. Grazie a Lucio Caraccio, direttore di Limes, e grazie a Oscar Giannino, che non ho bisogno di spiegare chi è, visto che ogni mattina lo sentite su Radio 24. Un ringraziamento invece, come ogni venerdì, a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Da Sebastiano Barisoni l'augurio di un buon fine settimana. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.